Allora, riceviamo e leggiamo un comunicato stampa del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario a proposito della sentenza del processo per lo stupro di Carmela. Oggi, 13 giugno, a Taranto alle 19, dopo 7 interminabili anni si è concluso il processo per stupro di Carmela, la ragazzina di appena 13 anni stuprata da 6 uomini, di cui 3 minorenni all'epoca dei fatti, che con una sentenza oscena di messa in prova ai servizi sociali non hanno fatto neanche un giorno di carcere e sono liberi. Carmela, a soli 13 anni, si è suicidata. Oggi la sentenza riguarda i 3 uomini, Filippo Landro e Salvatore Costanzo, condannati rispettivamente a 9 anni e 6 mesi e 10 anni, e invece Massimo Carnevali, il più anziano, di 54 anni, è stato assolto con formula dubitativa. Ma c'è poco da avere dubbi, la sua assoluzione è vergognosa. Nelle passate udienze, disturbato dalle presenze di donne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario di Taranto, che da 7 anni sono al fianco del padre di Carmela chiedendo giustizia e verità, ha tentato di far spostare il processo e infine uno dei legali ha denunciato le esponenti dell'MFPR per le loro iniziative sotto il tribunale, in particolare per un volantino che l'avvocato Maurizio Besio aveva sbandierato in aula come pericoloso. Noi donne del Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario riteniamo vergognosa l'assoluzione dello stupratore, vergognoso l'atteggiamento degli avvocati, ma le responsabilità del suicidio di Carmela sono da ricercare anche fra le istituzioni, che invece di aiutarla l'hanno colpevolizzata, strappata alla famiglia e rinchiusa in una casa famiglia dove veniva imbottita di psicofarmaci. Noi non ci fermiamo qui. Insieme al padre di Carmela andremo avanti perché giustizia sia fatta per Carmela e per tutte le donne stuprate e uccise. Eh sì, questo era il comunicato che hanno mandato le compagne l'altro giorno per la rete. Loro hanno seguito tutta la vicenda, hanno seguito tutto il processo in questi lunghi 7 anni. Magari potremmo anche un po' ripercorrere la storia di Carmela, probabilmente qualcuno insomma non se la ricorda. Tutto parte da un primo tentativo di violenza nel 2006, un marinaio, insomma un caso a quanto pare senza prove, visto che è stato archiviato per 2 volte di seguito. Insomma, il caso viene legalmente archiviato, ma ovviamente Carmela rimane psicologicamente scioccata da questo accaduto, sempre più insicura e inquieta. Dopo qualche tempo scappa di casa e dopo 4 giorni di ricerca viene ritrovata nei vicoli di Taranto sotto shock. Carmela è stata drogata e stuprata ripetutamente da più uomini, racconta la famiglia, la polizia, che però stenta a crederle perché insomma pare che ancora sia difficile ascoltare una bambina di 13 anni che racconta di aver subito queste atrocità. Così a questo punto Carmela viene tolta alla famiglia e ricoverata in un centro di recupero, dove non solo non le è permesso di vedere liberamente la famiglia, ma addirittura le somministrano un'elevata quantità di psicofarmaci, soprattutto all'insaputa dei genitori. Quando Carmela torna alla sua famiglia arriva ovviamente in una situazione psicologica fragile e devastata per sopportare il peso di tutto quello che aveva subito, di tutto quello che gli era successo. Carmela si butta dal palazzo e si toglie la vita. Il processo per lo stupro di Carmela è durato 7 anni, è finito con anche l'assoluzione, come abbiamo detto prima, di uno degli stupratori, perché insomma pare non ci siano abbastanza prove per condannarlo. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. Insomma, tante donne sono state vicino alla famiglia durante questi 7 anni durante i quali gli stupratori sono stati ovviamente a piede libero. And E durante questi 7 anni si è formata un'associazione che si chiama Io So Carmela, potete cercare il blog su internet, molto interessante, insomma, diciamo, ha seguito la vicenda per tutti questi anni e soprattutto ha creato anche un fumetto, un libro in cui si racconta la storia di Carmela. È un fumetto che prende spunto dal diario che la ragazza ha scritto durante il periodo di ricovero, anche, insomma, se vogliamo estendere il significato, si può anche parlare ovviamente di prigionia. Durante quel periodo lei scrive un diario pensando che almeno sul diario le sue parole potessero essere credute, e da lì è nato un fumetto edito da Becco Giallo che potete trovare e ordinare sul sito Io So Carmela. Io So Carmela è un intercalare che lei usava spesso, e anche a questo punto il nome dell'associazione che ha formato il papà.